Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Buonasera a tutti amici del Wombato, io sono Mario e siete qui con me per la consueta diretta quotidiana. Dunque questa è la mia prima diretta in solitaria, nonché la prima da quando è iniziato questo periodo di isolamento e il Wombat trasmette dalle sue tane sparse per la città e non solo. Sono ovviamente emozionatissimo e incrocio le dita affinché tutto riesca ad andare bene, soprattutto a livello tecnico. Ed è decisamente una long way per il top, ma non soltanto per me, anche soltanto per riuscire a trasmettere è stata davvero una very very long way che non sarebbe mai stato possibile riuscire a realizzare se non fosse stato per il preziosissimo aiuto che mi è stato dato e tutta la pazienza che hanno dimostrato le compagne e i compagni dell'A-Club Fiorentino. A-Club Fiorentino, che si chiama IFDU, come sapranno gli ascoltatori più affezionati della radio, e vorrei infatti iniziare ricordando anche l'indirizzo dell'A-Club, l'indirizzo email, l'indirizzo web, che è ifdu.noblogs.org. In particolare, dall'inizio di questa quarantena è stata realizzata dall'A-Club una pagina che si chiama Strumenti, si può trovare subito nel menu andando sul blog, dove sono stati raccolti una serie di strumenti utili, non commerciali, autogestiti e rispettosi della vostra intimità. Sono strumenti preziosissimi che servono a fare un po' di tutto, dallo scambio di file alla scrittura collettiva, fogli di calcolo, caselle di posta, calendari, motori di ricerca, accorciatori di link e un sacco di altre cose. Ve la raccomando e come, ripeto, ifdu.noblogs.org/strumenti oppure andando direttamente nel menu. E beh, a tutte le compagne, a tutti i compagni dell'A-Club Fiorentino io voglio dedicare innanzitutto questo primo inframezzo musicale e poi ci risentiamo subito così iniziamo questa puntata. Wombat. Grazie. taglio questo lungo finale strumentale di questa bellissima canzone dei Marlene. Grazie, perfettamente, grazie, solennemente grazie di nuovo a tutti quelli che mi hanno aiutato in questi giorni. Dunque, di cosa parleremo oggi? Abbiamo un sacco di contributi audio, un sacco di collegamenti. Io mi ero preparato anche una lunga rassegna stampa che in realtà non farò in tempo a svolgere. La scusa ufficiale può essere quella della ricchezza dei contributi che vogliamo mandare. La verità è che sono arrivato super in ritardo sulla costruzione del resto e quindi vediamo se la recupero durante la puntata di oggi. In questa puntata di oggi vogliamo dare uno sguardo fuori dalle nostre mura, extra Menia, ce ne vogliamo andare fuori da Firenze, infatti vedremo un po' che cosa succede in altre città e in altri paesi, qual è la situazione attorno al coronavirus, ma non solo. Però prima di tutto io vorrei ricordare un paio di cose. Allora, facciamo così, cambiamo base, vai! E guadagniamo un po' di allegrezza. Allora, innanzitutto voglio ricordare il nostro streaming, ma sicuramente già lo sapete se ci state ascoltando, che si può trovare sul sito della radio wombat.noblogs.org. Per interagire con me e con noi durante le dirette, in questi giorni è stato realizzato un pad che si può trovare all'indirizzo pad.cisti.org/p di Palermo/diretta wombat o ancora più semplicemente dalla home del sito cliccandoci sopra. C'è anche la possibilità di lasciare un messaggio vocale dalla vostra quarantena alla messaggeria del Wombat, l'indirizzo è messaggeria.degenerazione.xyz/wombat, ma di nuovo ancora più semplice è cliccare direttamente sul link sempre dalla home del sito. Ci stanno arrivando in questi giorni molti contributi, molti ci vengono inviati al nostro indirizzo di posta Wombat, postawombat@insiberia.net, ma non solo. Davvero in tanti ci stanno scrivendo, ci stanno proponendo contributi, vi ringraziamo tanto tutti. Alcuni di questi li manderemo oggi, altri ancora nelle prossime puntate. Ricordo di nuovo, tutti i giorni siamo in diretta dalle 19, oltre agli altri appuntamenti del palinsesto che potrete trovare per la settimana prossima a partire da stasera di nuovo sul sito della radio. Fra i molti contributi che ci sono arrivati, ho deciso di mandare per primo un contributo invece locale, prima di andarcene fuori da Firenze. Ecco, questo contributo è una rassegna stampa che non ho ancora ascoltato, ci è arrivata davvero pochi minuti fa da Antonio Probo. Non l'ho ancora ascoltata, ma sono assolutamente sicuro che dopo aver trasmesso questo mi rinfrancherò, perché non potrà che migliorare la situazione. Quindi ascoltiamo che cosa ha da dirci. Ciao, un saluto da Antonio Probo a tutti gli amici Wombati che stanno a casa loro a fare cacca a cubetti o altri, insomma, portare avanti altre attività importanti per il paese. E sono Antonio Probo, sono stato incaricato oggi da amici Radio Wombat per raccontarvi, insomma, poi rassegna stampa. Io sono tutto il giorno e leggo giornali che trovo, ecco, in giro, insomma, per l'area in cui ovviamente posso circolare liberamente, quindi tra il bagno e la cucina. E vabbè, e quindi appunto volevo leggere col titolone, ho fatto una breve raccolta, sono tre grandi articoli, titoloni. Iniziamo con La Repubblica. La Repubblica, appunto, grande, sapete, no, il governo albanese ha mandato, quindi titolone, dedichiamo appunto agli amici albanesi, grande opera di solidarietà del governo albanese, l'Albania manda 30 medici e un barbiere per Mattarella, quindi ringraziamo gli amici di Tirana e il loro presidente, dal nome strano, Bemirata, Ratama, come si chiama. Vabbè, comunque, altro titolone invece, eccolo qui, nel mio giornale preferito, un grande amante di Libero, no, sono un amante Libero, si sa, il ciuffetto di Mattarella risponde ai giornalisti: dateci un taglio, che sono bello anche così. Appunto, diamo anche la voce, Libero ha sempre dato la voce. Microfono anche ai deboli, no? Quindi appunto sempre dalla parte del ciuffo, diciamo, libero del nostro caro amico Feltri. E poi ecco invece al grande mondo dell'internet, grande mondo dell'internet, mio sito preferito per notizie, insomma, flash, teramonews.it. Elettra Lamborghini scrive su Twitter: me la gratto in continuazione. Mattarella replica: guarda che comunque non vado dal barbiere nemmeno io. Lui voleva, insomma, ecco, rispondere alla bravissima culona Lamborghini. Ciao da Antonio Probo. Eh sì, prevedevo bene. Ho tirato un bel respiro di sollievo dopo aver ascoltato questo contributo. Mi sento molto più tranquillo e andiamo, dai, avanti, subito a fondo di questa puntata di oggi. Come ho anticipato, non vogliamo rimanere a Firenze, ma anzi dare uno sguardo a cosa accade fuori dalla nostra città e dal nostro paese. Direi di prenderla larga e quindi iniziamo con un contributo che ci è stato mandato oggi da una compagna che si trova in Portogallo, in particolare nella città di Porto, e alla quale abbiamo chiesto com'è la situazione lì da lei a Porto e anche in Portogallo, e anche quali sono i problemi che stanno vivendo gli studenti Erasmus o i tirocinanti o i lavoratori fuori sede dell'università. Questa è la sua voce da Porto, la mandiamo e ci risentiamo fra pochi minuti qui su Radio Wombat. Salve amici di Radio Wombat, sono Cecilia e vi chiamo dal Portogallo. Prima di tutto per salutarvi e ringraziarvi per i podcast e le dirette che in questi giorni aiutano a passare il tempo, e inoltre per tenervi un po' in compagnia parlandovi della mia situazione e di come butta un po' qua in Portogallo. Io mi trovo a Porto da 2 mesi per un tirocinio lavorativo con l'Erasmus+, appena in tempo per scampare alla terribile quarantena italiana. No, in realtà non è che me la passo molto meglio di voi, anzi, sono in isolamento con i miei coinquilini da più o meno 2 settimane, perché la mia coinquilina, una compagna di Lecce, che è una dottoressa qua a Porto, è risultata positiva al coronavirus. Fortunatamente siamo tutti in piena salute, nessun sintomo al momento, ma tutti chiusi in casa. Manco la corsetta alla spesa salvifica possiamo fare. Allora, qua in Portogallo la situazione pare un po' più tranquilla per ora rispetto a quella italiana, o perlomeno non ci sono militari per strada o poliziotti a tutti gli angoli. Vi do qualche numero da telegiornale, giusto per un'infarinatura generale. Allora, ad oggi i casi confermati sono 5.170, con 100 morti, 902 in più rispetto a ieri. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato il 18 marzo, quando i casi erano 785, con quindi le conseguenti misure di sicurezza che più o meno ricalcano quelle italiane. Sono un po' più leggere. Ad esempio, si può uscire di casa solo per necessità, che è appunto spesa, banca, assistenza nel caso lavoro e attività fisica che, fate bene attenzione, può essere svolta in due. In massimo due, non da soli per forza. Poi, chiaro, sono state chiuse le attività non necessarie. I ristoranti sono stati chiusi, molti, ma molti, molti stanno lavorando, cioè tutti, con il takeaway, rispetto alla distanza di sicurezza. E sono state inoltre emanate una serie di disposizioni speciali per gli anziani, per le persone con più di 70 anni. Inoltre il telelavoro è consigliato, ma non obbligatorio, per ora. Allora, dico che la situazione è migliore rispetto a quella italiana, per alcuni motivi. Allora, in prima cosa i numeri sono inferiori, quindi è chiaro che la situazione è un po' più rilassata. Anche se c'è da dire che oggi i casi in più sono stati 900, ieri 700 e l'altro ieri 500, quindi questo lascia intuire la direzione del contagio. È chiaro che anche qua probabilmente i numeri andranno a crescere, anche se le misure di sicurezza sono state applicate con parecchio prima rispetto all'Italia, cioè con dei numeri ancora abbastanza contenuti. Inoltre, in primis, non c'è bisogno del foglio per circolare. Questa, insomma, è una bega in meno. Si va sulla fiducia, c'è la possibilità di essere fermati, ma ci si fida della parola. Appunto, se si viene fermati, uno dice dove sta andando, dove abita. E fine, è chiaro che insomma c'è una libertà maggiore. Inoltre, poi si può andare in due a correre e non da soli. Poi, appunto, i militari per ora rimangono a casa loro, quindi non c'è la tensione che mi immagino si possa respirare nelle strade italiane. Oltre al fatto che la quarantena è iniziata un po' dopo, ma non molti giorni dopo. Quindi, qua effettivamente ora sono 10 giorni che sono state applicate le misure e quindi 10 giorni che le persone più o meno stanno a casa. C'è da dire anche che l'indole dei portoghesi mi pare un po' diversa rispetto a quelli degli italiani. Ad esempio, tutti stavano già in autoquarantena prima delle misure di sicurezza e nessuno ha protestato molto per le misure. Anzi, appunto, già prima che fossero applicate, se erano autoimposte, sono un po' più accondiscendenti e forse anche responsabilizzati e terrorizzati dall'esempio degli altri paesi. Insomma, il picco qua però sarà previsto per fine aprile, inizio maggio, quindi in realtà vedremo. Una novità fresca fresca di oggi è che ci saranno dei droni che controlleranno la frontiera con la Spagna, che non so se tutti lo sanno, è chiusa. Si può passare solo in alcuni punti e chiaramente sotto stretta sorveglianza. Inoltre, altri due droni voleranno su Porto, ripetendo frasi di incitamento a rimanere a casa. Per ora, da casa mia ancora non è passato, però vi farò sapere. C'è da dire anche che il Portogallo è stato uno di quei paesi che ha chiuso i collegamenti con l'Italia già da quasi più di 3 settimane, oltre che le frontiere con la Spagna. E qui inizia la mia storia. Allora, il blocco dei voli per me, e immagino per molti altri studenti e lavoratori Erasmus, è stato un colpo basso, oltre all'università e all'ambasciata che brancolavano nel buio totale. Quando ha iniziato a balenarmi per la testa l'idea di tornare in Italia, visto che la situazione pare che sarà più lunga rispetto a quanto tutti ci aspettavamo e soprattutto auguravamo, mi è stato detto di arrangiarmi facendo delle triangolazioni su città collegate all'Italia con Alitalia. Cioè, che voleva dire che avrei dovuto prendermi un volo da Porto, da Lisbona, per una città europea collegata con l'Italia e da lì appunto poi spostarmi con un secondo volo. Le città collegate erano a quel tempo, che si parla meno di una settimana fa, Parigi, Berlino, Monaco, Ginevra, Zurigo e Bruxelles. Questo mi sembra, con una spesa folle e il dubbio di non avere il volo rimborsato dall'università, che non sapeva dare indicazioni chiare sul rimborso o meno appunto sullo spostamento. Allora, ho comprato un volo EasyJet per Ginevra e il volo per Roma da Ginevra. Dopo qualche giorno EasyJet annulla il primo volo, come era prevedibile, e già comunque buttava male. Nel frattempo l'ambasciata mi contatta per dire che un volo straordinario è stato organizzato dalla Farnesina, da Lisbona a Roma o a Milano, al prezzo di ben 270 euro, più del doppio di quanto già avevo pagato i voli, i due voli, cioè quelli EasyJet più quella all'Italia. Nel frattempo poi scopro che la mia coinquilina è positiva e quindi saltano tutti i piani di un ipotetico viaggio. Devo dire però che a differenza dell'ambasciata, l'università alla fine, dopo i primi giorni di buio totale, qualche giorno fa, mi sembra giovedì, ha fatto uscire un comunicato abbastanza chiarificatorio e salvifico. Quindi gli Erasmus possono dormire sogni tranquilli. Infatti, l'università, in questo comunicato spiega che la decisione che riguarda il rientro dello studente lavoratore che sia Erasmus o Erasmus Plus in Italia è libera. Cioè, è possibile rientrare senza rischiare l'annullamento della borsa per un rientro prima del tempo prestabilito. Verrà comunque, lo studente o il lavoratore verrà comunque retribuito per il tempo di permanenza nel paese dell'Erasmus. E con il volo, lo spostamento completamente rimborsato da parte dell'università. Viene infatti riconosciuto questo principio che si chiama principio di forza maggiore, per cui tutte le clausole del contratto Erasmus saltano. Inoltre lo studente o il lavoratore Erasmus può decidere di spostare l'Erasmus al prossimo semestre o per i lavoratori che dovevano terminare l'esperienza entro settembre, il mese di scadenza è stato prorogato a maggio, quindi nel frattempo rientrare con i costi di spostamento rimborsati e tornare poi nel paese successivamente. Può decidere inoltre di rimanere nel paese dell'Erasmus facendo telelavoro, se l'azienda lo permette, o non lavorando proprio, o per uno studente facendo telelezioni, se così si può dire, insomma, comunque lezioni universitarie via Skype, o non facendo in assoluto le lezioni se non sono messo a disposizione dalla struttura ospitante, aspettando la riapertura delle strutture, quindi con la borsa totalmente assicurata. Poi il comunicato è disponibile al sito dell'università www.unifi.it, quindi sono affrontati tutti i punti uno per uno, se qualcuno poi fosse interessato a leggerlo. La Farnesina nel frattempo sta organizzando qualche volo di rimpatrio. Non sappiamo la frequenza, non sappiamo i costi, non sappiamo se è uno, come ad esempio nel mio caso, o se ce ne saranno altri. Comunque, insomma, pare che ci verranno a prendere, anche se in realtà è probabile che rientrare in Italia di questi tempi non sia proprio la mossa giusta. Ne consegue infatti l'autoisolamento dopo il viaggio e oltre al fatto comunque di trovarsi in una situazione apocalittica che al momento è probabilmente peggiore di quella di molti altri paesi europei. Forse siamo lì lì con la Spagna, ecco. Amici miei, detto questo, vi saluto. Spero di rivedervi presto. Vi mando tanti baci e buon proseguo di quarantena. E, come si dice qui, buona sorte. Ritorniamo in diretta sulle frequenze di Radio Wombat. Torno anche, grazie di nuovo per questo contributo. Diciamo grazie anche per quello prima di Antonio Probo e la sua preziosa rassegna stampa, va? E ricordo di nuovo, per interagire con noi durante le dirette, c'è un pad, si può accedervi dalla pagina wombat.noblogs.org cliccando direttamente sul link. Stanno arrivando qualche messaggio e qualche mail, diverse persone mi stanno salutando, ricambio i saluti a tutti, a tutti. Allora, in questi giorni difficili vorrei anche portare una voce, anzi un suono che ci ha lasciato, è quello di Manu Dibango, fra chi ci ha lasciato a causa del coronavirus c'è il grande sassofonista Manu Dibango, che è deceduto questa settimana proprio a causa del Covid. Manu Dibango, per chi non lo conoscesse, molto velocemente, nato in Camerun nel 1933, si sposta poi a Marsiglia, dove studia, rimarrà a lungo in Francia e si muoverà fra Europa, America e di nuovo l'Africa, approcciandosi a un sacco di strumenti, ma soprattutto il suo è il sassofono, che rimarrà il suo strumento di elezione. Ecco, mi sembra più che giusto, direi quasi doveroso, lasciare la voce, anzi lasciare la parola a lui. Sentiamoci questa bellissima canzone, Wake Africa, di Manu Dibango, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Eccoci, eccoci di nuovo. Sono stato colto subito in fallo, mi viene infatti ricordato che non ho ascoltato, mi viene anzi fatto notare che non ho ascoltato la puntata di Uru di ieri sera, ed è vero, lo ammetto a testa bassa. Ieri sera alle 21.30 era andato in onda la trasmissione Uru, ma che andrà in onda di nuovo stasera subito dopo questa mia, a partire dalle 22, quindi avrò modo di recuperare. E beh, sospetto che Manu Dibango fosse stato non solo nominato, mi sa tanto, vero? Ma prima di passare di nuovo la parola a un altro contributo, vorrei fare un piccolo aggiornamento su quello che sta avvenendo, ma davvero piccolo, nei CAS e nei CPR. Viene fatto notare come ci siano diversi casi di contagio in questi giorni, che sono stati riscontrati in tutta Italia, nei CAS e nei CPR di tutta Italia, senza distinzione geografica. I numeri sono obiettivamente impossibili da trovare in modo ufficiale, ma sappiamo comunque come in questi centri di reclusione, altro che d'accoglienza, l'assistenza sanitaria non fosse garantita nemmeno prima del coronavirus. E poi anche ricordiamo come dopo lo smantellamento dell'accoglienza diffusa operato dai decreti Salvini si sia creata una situazione drammatica. E allora quello che in tante associazioni e anche avvocati di parte, oltre che collettivi, movimenti e attivisti, continuano a chiedere è la loro chiusura. Ci sentiamo sicuramente di appoggiare questo. Continuiamo con questo nostro volo attorno alle situazioni fuori dall'Italia e andiamo a sentire adesso un altro contributo che ci è arrivato, invece questo da Barcellona, o meglio dall'Italia in realtà, da un compagno, Lucio, che è appena tornato ieri da Barcellona e al quale abbiamo chiesto di raccontarci un po' qual è la situazione proprio a Barcellona e anche quali sono stati i suoi disagi nel ritornare in Italia, o meglio come semplicemente ha fatto. Ascoltiamo la sua voce, passo parola. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori al team di Radio Wombat. Io mi chiamo Lucio e sono uno degli italiani che è rientrato dall'estero negli ultimi giorni. Sono appunto ritornato in Italia dalla Spagna, dove stavo lavorando, più precisamente da Barcellona, e con una barca che è stata organizzata dal Ministero appunto per far rientrare i connazionali. Mi è stato chiesto un attimo di descrivere come ho vissuto la situazione in Spagna e appunto di esporre un attimo come è andato il viaggio, quali problemi ci siano stati, insomma, e che cosa mi è stato richiesto per il rientro. La Spagna, per come l'ho percepita io, ha reagito in maniera molto tardiva rispetto al coronavirus, proprio perché mentre io ero là e continuavo a lavorare, quindi a farmi un'ora di metro andare, un'ora di metro tornare da lavoro, continuavo a parlare con la famiglia e con gli amici che invece erano in Italia in quarantena e mi rendevo conto di come in realtà non la situazione stava per collassare in Spagna. Sono stati chiusi inizialmente i voli e i contatti con l'Italia e i primi casi e la diffusione del coronavirus ha colpito principalmente all'inizio Barcellona, scusate, Madrid. Però appunto sia il governo che le varie amministrazioni locali che l'hanno anche più libertà hanno ritardato tantissimo qualsiasi tipo di intervento, appunto, a parte la chiusura delle università inizialmente e la chiusura delle scuole però solo a Madrid, salvo poi rendersi conto della gravità della situazione e imporre anche loro la quarantena. La situazione a Barcellona della quarantena mi sembra, per quanto ho percepito io anche dell'Italia, mi sembra che sia stata più pesante perché è stata repentina e perché rendendosi conto di essere rimasti indietro era molto più dura. Per fare un esempio, il mio coinquilino è stato multato praticamente sotto casa mentre stava fumando una sigaretta. E, fra l'altro, io vivevo in una zona un po' più tranquilla per quanto riguarda anche appunto la quantità di polizia e di controlli che c'erano, perché stavo sulle colline sopra dal Parkwell, mentre mi è stato detto da alcuni amici che vivevano nella zona del centro, in particolare del Raval, che il centro storico era assolutamente blindato di polizia e che appunto in una situazione nella quale uno non può mettere piede fuori dalla porta, salvo per necessità, si era creata molta tensione nell'aria. E anche perché magari ci sono alcuni quartieri, come appunto il Raval, che sono quartieri caratterizzati da, insomma, situazioni sociali precarie, sovrappopolamento, magari famiglie di immigrati che hanno 4-5 figli e dentro delle case, veramente ristrette, stanze senza luce. E quindi un blindare un quartiere del genere con delle misure estremamente restrittive ha portato sicuramente a una tensione notevole nell'area. Quando ho scoperto appunto che era stata organizzata questa nave per poter tornare, che poi credo che appunto sia l'ultima che si è partita, insomma, ho deciso di rientrare. E per quanto riguarda il viaggio, penso che sia andato tutto bene, tutto con le precauzioni necessarie. Ovviamente ci sono state delle file eterne sia all'entrata che all'uscita. Siamo stati controllati dalla polizia. C'era un dottore a bordo che ci ha misurato la temperatura. Ognuno di noi aveva una cabina a parte che era stata disinfettata. E una volta scesi a Genova, di nuovo ci hanno fatto i controlli, ci hanno fatto scrivere tutti gli opportuni documenti e poi siamo stati portati con un pullman in stazione. Da lì poi ognuno è ritornato a casa, al proprio domicilio e ci hanno cercato di sistemare in vagoni appositi. I treni erano praticamente vuoti, però insomma hanno cercato di mettere noi che avevamo viaggiato tutti insieme, che venivamo da diverse parti del mondo, in fondo a ogni treno in modo da non contagiare gli altri passeggeri. Quindi in realtà, nonostante appunto si sia mossa tutta questa macchina gigantesca, forse un po' a rilento, io penso che sia stato organizzato tutto abbastanza bene. Anche perché io appunto ho preso il biglietto 2 giorni prima della partenza, quindi penso che chi avesse necessità di tornare ha avuto l'opportunità di rientrare in patria. Una volta poi arrivati ognuno nel proprio domicilio, ci è stato chiesto di chiamare l'USL, noi siamo in quarantena obbligatorio, non possiamo mettere piede fuori dalla porta e siamo rintracciabili attraverso il numero di telefono che appunto abbiamo comunicato all'USL dando ognuno il proprio domicilio, dove stiamo rispettando la quarantena e l'azienda sanitaria ci può telefonare e nel momento in cui ci telefona ci geolocalizza attraverso il cellulare per verificare appunto che noi stiamo rispettando la quarantena. Quindi, tutto sommato, se devo dare un giudizio di come è stato organizzato il rientro e anche di come è stata gestita la situazione in Italia, se devo fare un paragone con la Spagna, mi sembra che l'Italia abbia funzionato meglio. Ha tentennato di più all'inizio, ha preso delle misure forse parziali, forse non ha avuto abbastanza polso, però sicuramente rispetto alla Spagna che aveva di fianco l'esempio dell'Italia, che vedeva come si stava sviluppando il virus e questa pandemia, in uno stato limitrofo, credo che le azioni appunto del governo italiano, bene o male, abbiano funzionato meglio. Ringraziamo anche Lucio per questo contributo, che questa esperienza personale che ci ha riportato. Prima di arrivare in Italia avevamo preparato, in realtà non ho finito di preparare due contributi, sarebbero arrivati dalla Svizzera e dalla Germania, ma vediamo sicuramente nelle puntate della prossima settimana di rimandarli. E allora per adesso procediamo. Mi è stato poco fa fatto notare che a proposito di morti per il coronavirus, ieri a Cracovia ci ha lasciato un grande compositore, che spero di pronunciare bene, si chiama Krzysztof Perendecki. Mi è stato fatto notare questo e mi è stato anche suggerito di mettere i primi minuti di questo bel quartetto, che in realtà è lungo, ma ascoltiamo i primi minuti. Sì. Di Palo in Frasca, dagli Aerosmith. Ora, prima di continuare, io devo dire la verità, non ho ascoltato nemmeno la fuga del gatto, quindi spero di non fare un'altra pessima figura qua. Thank you.

best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em. Know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away. Sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. Oh, mia bella quarantena, che hai bloccato sta Milano, non c'è più una pericena. Sembra di essere a Wuhan, ma c'è ancora chi fatica e non può star con mano in mano. Se sei medico, cassiere oppure rider, devi andare a lavorare. Oh mia bella zona rossa, se finisci chi lo sa. Sulla metro e starnutire se mi va. Ogni giorno c'è un decreto più stringente nel vietare. Da domani pure a casa c'è la fila per andarsene a cagare. Questa ultima che avete sentito era Oh mia bella quarantena, una canzone realizzata da Francesco, un compagno, uno studente fuori sede che vive a Firenze ma che viene da Milano e uno dei membri fra l'altro del laboratorio teatrale Post Work che da quest'anno si svolgeva ogni settimana in Polveriera, ma che adesso sta cercando altri mezzi, altri modi comunque di trovare luogo virtuale in attesa di poterci finalmente tutti quanti rivedere di persona. Ne manderemo anche un'altra più tardi, mi sembrava sicuramente adatta comunque questa canzone per introdurre i prossimi contenuti che proprio da Milano arrivano. Questa canzone era uno dei molti contributi che ci stanno arrivando in questi giorni sulle pagine della radio e siamo invece andati a cercare delle voci milanesi per chiedere loro come va la situazione a Milano. Abbiamo un piccolo contributo che mandiamo subito, che arriva da Ivan Tresoldi. Ivan Tresoldi è un artista, poeta di strada e agitatore milanese. In diversi lo conoscono, è stato a Firenze in occasione del Festival di Letteratura Sociale assieme al collettivo Viola o Viola nell'occupazione di Viale Corsica per una iniziativa un paio di anni fa e a lui abbiamo chiesto come va a Milano e come stai te. Ascoltiamo. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. A Milano stiamo come d'autunno sugli alberi le foglie. No, non è vero, non voglio parlarvi dell'ombra, che credo tutti conosciamo, ma come dice Goethe, della tante luce prodotta, e quindi forse vi voglio raccontare delle cose buone che accadono a Milano e in Lombardia. Intanto, per opposto, le persone empatizzano, amor che nulla amato amar perdona, se sarai empatico, se nel nostro mal tu vuoi sapere, no? Oggi un po' tutti sanno e conoscono il male dell'altro, e quindi se un rivoluzionario argentino diceva senti ogni ingiustizia del mondo come fosse tua, oggi c'è un precetto a sentire delle ingiustizie del mondo come proprie. Banalmente c'è una condizione che è quella di resilienza obbligata domiciliare, che è molto simile agli stati di carcerazione, marginalità anche, a cui molto spesso altre persone vengono esposte o subiscono. Milano ha le sue strade nuovamente, Milano ha i suoi suoni nuovamente, quindi incredibilmente abbiamo fatto un balzo nel tempo, e senti il tram sferragliare nell'arrivo del ticinese, ed è stata una stagione brevissima che tra la cementificazione degli ultimi navigli, quindi la perdita dei cavalli e dei barconi e l'arrivo delle automobili e dei tram e dei filobus, insomma, aveva adottato la sua città di un suo abito naturale in termini di sentire proprio di scenografia musicale della città. Milano è ritornata a essere solidale un pochino, perché le persone hanno bisogno, forse non per proprio per propria volontà, ma insomma per necessità, il tema dell'essere solidali ritorna. Le persone si scontrano e si incontrano e rimangono sole, quindi la situazione è dura, ma per un po' il positivismo e l'anarchia che mi contraddistingue, credo che è quando la notte si fa molto buia che le poche stelle che ci sono però brillano, e brillano come mai. Una sensazione strana è che sono andato a fare per la rete Non Uno di Meno, lo spazio sociale Cantiere, alcuni compagni e compagne creativi per la rete dell'8 marzo di quest'anno, un piccolo assalto poetico in giro per il mio quartiere. Io so che tanti magari che ascoltano conoscono queste pratiche o hanno gettato spesso il cuore in strada. Beh, l'incredibile poter uscire l'8 marzo, che già la situazione era meno claustrofobica di questa, diciamo, avere la gioia di attaccare delle poesie in giro, ma un secondo dopo averla scritta attaccata, avere la consapevolezza che nessuno le leggeva. Quindi io invece personalmente mi sento un po' sospeso, e quindi è come se fossi felice senza riuscire a ridere. Questa era la voce di Ivan Tresoldi, uno degli animatori anche di Arcademy, e la sua voce la sentiremo anche più avanti, perché adesso ce ne stiamo un po' a Milano. Ce ne stiamo un po' a Milano che si vive una situazione problematica più che altrove, quella città, ma anche tutta la regione, come sappiamo, conta infatti più di 40.000 casi attualmente di positività del coronavirus, circa la metà di quelli italiani, oltre a 6.000 morti, 12.000 e rotte persone in isolamento domiciliare, senza contare le migliaia che sono adesso ricoverate in terapia intensiva. Noi abbiamo raggiunto oggi a telefono, e stiamo per mandarvi questo contributo, abbiamo raggiunto Valentina e Valerio. Abbiamo raggiunto Valentina e Valerio, che sono fra i coordinatori delle Brigate Volontarie per l'Emergenza. È un'organizzazione che serve come supporto e aiuto alla popolazione durante questa emergenza di Covid-19, che è nata a Milano appunto per fronteggiare l'epidemia. Ehi. Prima di sentire però la loro voce in questa intervista piuttosto lunga che manderemo a breve, ho pensato di mettere anche una canzone che di nuovo ci tiene a Milano e che mi sembra assolutamente appropriata. 40 di 40 notti. Serum in quater culpa dola, e Rodolfo el gaina e per me, quater amis, quater malnat, venius insieme a compagni di gatto. e fa la guerra in Albania, e su in montagna c'ha pairat, neger tudesc della Wehrmacht, mi fan morire d'uma pensac, me mancata in d'un'imbuscada, pugne pesciate na fusilada. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, a San Vitura c'ha pai bot, dormi de campi in de malat. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, sbattute su, sbattute giù, mi son de quei che parlano. El commissario una mattina, el me manda ciamali per lì, noi siamo a ca, non senti alcun, el me diceva sto brutteron, el me diceva i tuoi compari, lui li pigliasse senza di te, ma se parlasse io firma ca, il tuo condono la libertà. Si nu fesse cassi contento di stare solo e chiuso qua dentro. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, a San Vitura c'ha pai pot, dormi de campi e de malan. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, sbattute su, sbattute giù, mi son de quei che parlano. Son sarà su in stara terra, piena de nebbia, de frecce, de scu. Sota sti mur passe ni tra, recasse vita del me Milan. E il cœur se strange ben giò la sera, ne senti mal stuminga in pè, pugia in sul let in d'un canton, me par de ves propi mi su. Le pesche in guerra sta in su la terra, la libertà la varna spiada. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, a San Vitura c'ha pai pot, dormi de campi e de malan. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, sbattute su, sbattute giù, mi son de quei che parle. Abbiamo raggiunto a telefono Valerio e Valentina, coordinatori delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, un'organizzazione di supporto alla popolazione nata a Milano durante questa emergenza di Covid-19. Quindi intanto grazie per essere qui con noi e con le Brigate e assieme ad Emergency organizzate squadre di intervento volontario per dare il vostro contributo attivo in questo momento emergenziale, giusto? Quindi la prima domanda che vorrei farvi è come vi organizzate, come vi muovete e come sta andando questa iniziativa? Ciao a tutti e tutte, sono Valentina, insieme a Valerio e ad altre persone facciamo parte del coordinamento generale delle Brigate Volontarie per l'Emergenza che operano ormai da 2 settimane sul territorio del Comune di Milano. La nostra struttura organizzativa è composta per l'appunto da questo coordinamento generale che trova la sua base operativa in Casa Emergency e che per l'appunto dirige tutte le varie attività e si coordina con i volontari e gli operatori di Emergency. E poi da 9 brigate, ognuna collocata per una zona di Milano. Ogni zona, ogni brigata ha un proprio responsabile di zona che è direttamente in collegamento con il centralino di Emergency, con il coordinamento,

ecco, brigata di appoggio mutuo, ecco, adesso mi sono corretto, insomma, e a Napoli hanno fatto una brigata a Scampia e via discorrendo. Non sono ancora in grado di darvi un elenco completo di tutte le città in cui si stanno costituendo brigate simili, poi ognuno con la sua specificità. Quello che io dico, federiamoci, mettiamoci insieme perché questa è un'occasione per costruire l'organizzazione anche in prospettiva, che abbia delle prospettive, delle ricadute di cui noi abbiamo bisogno come compagni e compagne, come rivoluzionari e come rivoluzionarie. Vi saluto a nome di tutti noi del coordinamento milanese e vi auguriamo buone cose, sentiamoci ancora, grazie mille per lo spazio che ci state dando e un abbraccione a tutti quanti. Buona lotta. Te che prima di marzo mi avevi detto di avere coraggio, perché la foga di fatturare ti aveva fatto uscire di senno. Te che con voce paterna mi hai detto Milano non si ferma, anche se ora ti senti stronzo, rimarrai sempre coinvolto. A chi lavorava in fabbrica, in imparo, in un ristorante, avete detto basta osservare le norme igieniche, le giuste distanze. Se chi lavora teme di più la disoccupazione dei respiratori, anche se da questo vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E noi che sui loro banconi come coglioni ci siamo affollati, nei giorni in cui le infermiere erano chiuse in reparto in catene, bevevamo in buona fede le nostre birre tutte le sere, siamo stati egoisti e stolti, tutto sommato siamo coinvolti. E se nei nostri quartieri c'è gente che suda e tossisce da ieri, ma senza laboratori non ha nessun senso fare i tamponi. Vorrei dire a chi alla sanità e alla ricerca ha tagliato i milioni, guardate i medici e i volti stravolti, quel cazzo di test non serve poi a molti, puntate i camion che spostano i morti, questo è quanto siete coinvolti. Chiusi in queste case che diventano belle galere, le urla dei carcerati ci suonano un po' più sincere. Sui treni affollati siamo stati tutti migranti o rifugiati. Quando direte chiudiamo i porti, vi assomiglieranno un poco quei volti. Ora che capiamo il dolore degli ultimi, nel cambiamento siamo coinvolti. Se credete una volta finita che torneremo alla solita vita, che vi lasceremo privatizzare mentre imponete la disciplina, se siete convinti così, beh allora avete capito male, basta mercato e profitto al comando, noi rivogliamo lo stato sociale, una volta finito col coronavirus toccherà a quello neoliberale. Torniamo in diretta, è molto tardi, quindi andiamo di corsa. Ringraziamo di nuovo i compagni per i contributi, ma come promesso prima durante l'intervista, ci tengo a ricordare le iniziative che sono in atto a Firenze a proposito di solidarietà attiva. Dunque, a Novoli esiste la Brigata di Solidarietà Popolare, la Brigata di Solidarietà Popolare appunto di Novoli, si può fare riferimento alla pagina Facebook Brigata Solidarietà Popolare. Per quanto riguarda invece le zone di Grassina, dell'Antella, Capannuccio, Osteria Nuova e zone limitrofe, la consegna della spesa a domicilio avviene grazie alle compagne e compagni di Mondeggi, si può quindi rivolgersi direttamente a loro. Per le minime, il riferimento è il Fondo Comunista e l'associazione Angela e Ciro. A Rifredi sono i Rude Boys, Rude Boy YS, ma lo sapete, insomma. Per Gavinana, CPA e la rete Fuori Mercato. Per Sanfrediano si può fare riferimento all'occupazione di Via del Leone. Per le altre zone non toccate da queste iniziative, invece, possiamo rimandare sicuramente a Resistenze, la pagina internet è resistenzefirenze.noblogs.org. Ci sono alcuni numeri di telefono a cui si può chiamare e c'è modo di ricevere le consegne del caso nelle zone non toccate da queste da queste altre iniziative. Quella che avete sentito invece dopo l'intervista era di nuovo una canzone registrata da Francesco, un compagno milanese che vive a Firenze e che fa parte del laboratorio teatrale Post Work. Altre sempre sue le manderemo anche senz'altro nei prossimi giorni. Andiamo a concludere un attimo invece questo spaccato sulla città di Milano ascoltando la voce di altri due compagni, perché le brigate di solidarietà che abbiamo sentito poco prima hanno da poco lanciato una iniziativa, vediamo se riesco a trovare il sito, così lo do esattamente, eccolo qua, la pagina Facebook è facebook.com/brigartemilano, si può trovare altre informazioni seguendo cercando l'hashtag brigarte, appunto, l'indirizzo email è brigartemilano@gmail.com. Quello che propongono è agli artisti, agli street artist, a tatuatori, fotografi e quant'altro, di proporre una propria opera per un'asta che dovrà durare 24 ore, il cui ricavato andrà interamente a finanziare l'operazione, le opere delle brigate volontarie. Bene, ma andiamo un attimo, ho fatto confusione. Eccoci qua, di nuovo, ci siamo. Vediamo di ascoltare per concludere quindi la voce di alcuni degli organizzatori di questo progetto Brigarte. Uno è Norberto di Arcademy, grafico, street artist, e uno degli ideatori di questo progetto, e di nuovo la voce del poeta di strada milanese Ivan Tresoldi. Sono entrambi tra gli animatori di Arcademy, un'associazione Art Academy, un'associazione culturale che si occupa di interventi di arte urbana, progetti culturali, artigianali e diverse altre cose. Passiamo parola a loro, ci risentiamo fra pochissimo. Ciao a tutte e tutti. Il progetto Brigarte Milano nasce per far fronte a tutte quelle spese che i volontari delle brigate stanno sostenendo adesso di tasca loro. Ad ora i volontari hanno dovuto pagarsi la benzina della macchina e per i primi giorni di attività persino le mascherine e gel disinfettanti che adesso sono arrivati. In qualche caso è stata anche fatta una colletta per fare la spesa a chi non poteva permetterselo. Speriamo che arrivino dei rimborsi, ma per il momento abbiamo bisogno di fare una cassa nostra per far andare avanti il progetto a prescindere e in maniera autonoma. Da qualche settimana faccio anche un volontario con le brigate e l'esigenza di creare questa cassa comune è emersa fin da subito. Io nella vita al di fuori di questa quarantena lavoro a stretto contatto con questo mondo dell'arte, ho una serigrafia all'interno di Arcademy, dello spazio di co-working con cui collaboro anche per altri progetti personali e che ci ha aiutato a realizzare questo progetto. E da tanti anni faccio anche graffiti, quindi ho pensato di connettere un po' tutti questi contatti e creare questo appello a tutti i writer, street artist, fotografi che ci seguono, serigrafie, poeti di strada. E abbiamo subito ricevuto un'ottima risposta e quindi abbiamo creato questa pagina Facebook Brigarte Milano, su cui poi si può appunto partecipare alle aste per sostenere il progetto delle brigate dei volontari. Ringraziamo tutti gli artisti che stanno donando le loro opere e anche a tutti quelli che fanno le offerte e che stanno comprando. Continuate a seguire la pagina, che a breve tutto quello che non è stato riuscito a vendere con le aste vediamo di comunque provare a tenerlo disponibile con una galleria e quindi a poter continuare questa colletta, questa raccolta. Grazie. Grazie alle brigate volontarie, al contributo e alla formazione di Emergency, al nostro contributo come Arcademy, alla Rete Viola, ai tantissimi creativi autori che da ieri stanno rispondendo e donando i propri lavori al supporto delle brigate, delle brigate, come le abbiamo chiamate, è intanto qualcosa di doveroso e necessario, e quindi è il sostegno degli individui auto-organizzati, autonomi, che mettono intanto i loro corpi, ma anche purtroppo i loro soldi, a tutela e a frontiera, tra strada, virus e condizioni di marginalità e necessità. Quindi credo che ognuno debba necessariamente in questo momento essere partigiano. E essere ignavi è colpa e reato, non fare è una colpa, non è una scelta, soprattutto in momenti così, almeno io la vedo così, e quindi nelle possibilità di ognuno, e quella dei creativi, di tanti autori, poeti di strada, street artist, eccetera, è stata quella di poter creare dei contatti, farsi dare qualche piccolo soldino sottostimando leggermente il valore dei propri lavori e coprire noi così le spese vive che tutti i giorni le brigate hanno, perché poi si tratta di spostamenti. Anticipo di materiali, anticipo di spese, insomma le complessità sono tante. Io voglio essere però onesto, il ruolo di Arcademy, della Rete Viola, è un ruolo di contributo, ma devo essere onesto, buona parte dell'iniziativa, del cuore, e poi concretamente di quello che viene fatto tutti i giorni è espressione delle brigate, e quindi devo dare. Noi abbiamo avuto il merito di poter partecipare a qualcosa di più grande fatto da altri. Quindi io, mia volta, voglio ringraziare vivissimamente tutti per il contributo che ci stiamo mettendo. E stanno già arrivando qualche soldino importante. È bello vedere poeti di strada, writer, street artist, muralisti, non muralisti, creativi, designer, poeti e basta. Insomma, tutti a fianco con ognuno che spinge per un utopos comune, quindi un'utopia, un quel luogo che non raggiungeremo mai, ma per tutti noi è il cammino che fa il passo e il fiato. Vi abbraccio forte, viva Firenze, viva la libertà e viva l'anarchia! Don't you know we're talking about a Dunque, prima di passare parola all'ultimo contributo, sto andando effettivamente un po' lungo, però del resto la replica della puntata di Uru di ieri sera sarà in onda più tardi alle 22. Ricordo che fra l'altro Uru è il programma che io ieri non ho ascoltato e che parla di musica, suoni e voci dal continente africano. Andrà in onda alle 22 oggi. A seguire ci sono alle 23 i consueti racconti di quasi mezzanotte, con i quali vi teniamo compagnia qua da Radio Wombat, prima di andare a Nanna. Il palinsesto molto ricco della radio viene aggiornato di settimana in settimana. Già da stasera troverete il palinsesto della settimana nuova. Ricordo, ma ormai è tardi, insomma, quelli che sono i modi per contattarci, anche al di fuori di questi momenti di diretta. Le mail postawombat@insiberia.net, come diciamo questo come riferimento principale. Per commentare in diretta invece c'è un pad il cui link si può trovare sulla home del sito. Ok, mi stanno anche scrivendo qualcosa ora che apro il pad. Infatti ci sono diversi commenti non letti, ne raccolgo un paio giusto per concludere. C'è chi manda cuori a Lucio, che era il compagno che ha lasciato un contributo da Barcellona. C'è chi dice che era bellissima la voce di Kenny Rogers, chi dice che era stupenda la canzone di Francesco, il ragazzo che ha registrato due canzoni che abbiamo mandato oggi. C'è chi dice invece che è bella la diretta. Grazie, grazie, siete decisamente troppo buoni, decisamente davvero, davvero. Mi fanno anche notare che Francesco, fra l'altro, è il ragazzo che ha scritto le canzoni, fa parte anche delle brigate volontarie, una bellissima coincidenza. Ok, lasciamo come ultimo contributo di oggi, poi ci risentiamo per i saluti. Lasciamo la parola invece a un altro contributo che ci è arrivato in questi giorni da Radio Wombat, sulle pagine di Radio Wombat. È il primo in realtà di una serie che vuole toccare degli argomenti tralasciati, ma che ci sembrano in realtà assolutamente importanti, come quella di chi fa uso di sostanze in questi in questi giorni e i problemi che vive. Infatti, il primo è stato realizzato da una compagna assieme a Sara Contanessi, che è un'operatrice di strada a Prato e è una coordinatrice del progetto Outsiders di riduzione del danno, e che qui in questa intervista ci parla del suo lavoro, dei problemi di questo periodo, appunto di chi usa sostanze e dà i loro consigli ai consumatori, oltre che un riferimento fisico e telefonico. Passiamo quindi a questo contributo. Siamo partiti da Firenze, abbiamo fatto un giro per l'Europa e per il mondo e a Firenze, anzi vicino a Firenze, a Prato, ritorniamo per concludere. Ci risentiamo dopo questa intervista per i saluti. Abbiamo pensato con Radio Wombat, abbiamo deciso di intervistare Sara Contanessi che lavora con la cooperativa sociale CAT, è un'operatrice di strada ed è la coordinatrice dell'unità di strada di Outsider Prato. Allora, ciao Sara. Buongiorno, grazie intanto per questa intervista, visto che immagino che non sarà un periodo facile per nessuno. Allora, volevamo chiederti intanto una definizione di riduzione del danno per chi ancora non la conosce, speriamo in pochi. Allora, la riduzione del danno in realtà è il quarto pilastro delle linee guida europee sulle sostanze. L'obiettivo della riduzione del danno rispetto ad altre attività che purtroppo sono molto conosciute in Italia non è l'astinenza, ma il benessere psicosociale delle persone. Quindi in realtà come operatori di strada tu stabilisci una relazione di prossimità che si basa sull'assenza del giudizio e la distribuzione di materiale sterile, di sanitari per quanto riguarda i rischi collegati all'epatite e all'HIV, soprattutto per i consumatori, per via iniettiva, e stai in una relazione di ascolto con l'altro, che può dirti benissimo che in questo momento non ha assolutamente voglia o desiderio di sospendere il consumo della sostanza, e quindi nella riduzione del danno c'è la tutela della salute, può però, cioè nel senso, può anche dirti in un certo momento di aver voglia di fare un cambiamento che può essere basato o sull'autoregolamentazione, cioè non mi piace più la relazione che io ho stabilito con una droga, per me è un problema, non riesco più a gestirla, e quindi ci sono degli strumenti proprio sulla riduzione del danno, che sono il diario del consumo, la bilancia degli aspetti positivi e negativi per arrivare a una forma di regolamentazione, ma può anche dirsi che in quel momento invece vuole sperimentare l'astinenza, vuole chiudere quella relazione con la sostanza, e quindi come operatore della riduzione del danno fai un orientamento e un accompagnamento anche a quelli che sono i SERD per la somministrazione di terapie sostitutive. La riduzione del danno non è solo sanitaria, ma va a intaccare tutti gli aspetti della vita di una persona, sia l'aspetto legale, perché come sappiamo, essendo comunque le sostanze psicotrope un mercato illegale, molto spesso le persone hanno dei problemi di tipo legale, legati alla microcriminalità, dal loro spaccio, ai furti e sociale, perché molto spesso le persone che utilizzano sostanze in maniera problematica magari diventano degli outsider, cioè alla società, quindi marginalizzazione rispetto alla qualità dei documenti, alla qualità della residenza, sono tutti fattori legati comunque alla dignità della persona. Quindi la riduzione del danno è un approccio sanitario che però rispetta la libera scelta individuale. Ok. E a questo punto ti chiediamo che cosa è cambiato in questo periodo, quindi in questi momenti di urgenza del coronavirus, quindi che cosa è cambiato in strada, se è cambiato qualcosa. Allora, in strada io posso parlare però del territorio stratese, che è quello sì. Che su cui sto continuando a uscire, in realtà c'è un'emersione della parte più vulnerabile della popolazione di consumatori, ma anche di punti di vista di mora, dovuta comunque a uno spostamento, no, della città. Quindi in realtà si muove solo chi non ha alternative. Questo da un punto di vista delle operatività di strada rende in questo momento il lavoro ancora più interessante. Perché naturalmente per quelle che sono le misure per tutelare anche gli operatori non si mantiene distanza di sicurezza, ma si può dare magari un maggiore spazio alla relazione e si stanno anche facendo tanti nuovi contatti. Sicuramente aumentano i bisogni, aumentano le richieste, sentono molto sotto scasso legale le persone che vivono la strada, anche per il discorso dell'ammenda, delle denunce, hanno anche bisogni primari legati al discorso alimentare, al discorso dei vestiti, soprattutto oggi, anche in questi giorni che è tornato spesso. Sì. Però devo dire che il territorio stratese si è attrezzato abbastanza bene rispetto a questo. La mensa della Caritas è attiva anche con un orario più prolungato rispetto alla media, dando solo pacchi d'asporto, ma questo però non richiedendo la tessera. Quindi anche le persone che per i loro mille motivi non avevano mai voluto accedere a certi tipi di servizi, in questo momento li stanno usufruendo. Una cosa che ci preoccupa molto di più, ma ce n'è in strada, il fatto che i fontanelli siano stati chiusi. Scusa, non si sentiva bene. E il fatto che i fontanelli siano stati chiusi. Ah, ok. Quindi non c'è reperibilità di acqua. Okay. E è comunque un bisogno primario, per cui pensiamo che dalla prossima settimana cercheremo di organizzarci anche su questo. E negli ultimi giorni possiamo dire che c'è stato anche comunque un incremento di persone che non avevano mai voluto accedere ai server. Stamattina ci hanno detto che, siccome comunque sul territorio si cominciano a reperire sempre meno sostanze, parlo sempre del territorio strategico, sì, e a prezzi più elevati, comunque hanno fatto accessi volontari al server per la terapia sostitutiva almeno in questo momento. Ok, quindi i servizi comunque sono aperti. Restano allora, aperti. Il servizio è aperto. Sì. Rispetto ad altri servizi ha deciso di non dare affidi a lunghissimo tempo e devo dire che le persone che consumano sostanze sono anche felici di questi, perché ce lo riportano come dicevo, un momento in cui comunque io già non sto bene, sono costretto a passare la maggior parte delle ore in casa, non ho l'umore molto stabile e rischio di farmi anche la preoccupata di metadone. Quindi sono contenti che non dipenda da cosa subito. Quindi il farmaco viene ancora distribuito a seconda degli affidi stabiliti e in caso di necessità hanno attivato addirittura il servizio domicilio. Tutte le mattine partono due medici e vanno a fare le domiciliazioni del farmaco per le persone più vulnerabili e più a rischio sanitario. Ok, E quindi voi che tipo di, diciamo, consigli date in questo momento ai consumatori rispetto al generale? Allora, sicuramente ricordiamoci che, e questo anche si trovava su un articolo che è stato pubblicato la scorsa settimana da Giorgio Samorini, il consumo di sostanze eccitanti rispetto ad altre sostanze eccitanti, penso alla cocaina, o comunque limfatogeni come l'MDMA, diminuiscano le difese immunitarie, quindi creano un momento di immunodeficienza temporanea che in questo momento sicuramente rende più vulnerabili da un punto di vista sanitario. Siamo molto attenti alla pulizia delle sostanze, cioè anche chi non inietta ma pippa, è molto importante più di prima che non utilizzi soldi, ma utilizzi pippotti monouso e personali. Non, anche se pensiamo al consumo di cannabis, sarebbe molto molto meglio che le canne non venissero passate, così come le bottiglie di vetro. E ricordiamoci che le sostanze molto spesso comunque fanno un viaggio nell'intestino, quindi vengono poi distrutte attraverso l'ano e soprattutto per il caso di sostanze come l'eroina e la cocaina vengono tenute in bocca per nasconderle da. Allora, anche in quel caso è molto importante che anche l'involucro venga pulito nel momento della cottura. E poi le linee guida sono sempre le stesse, cioè comunque non scambiarsi materiale sterile di nessun tipo. In alcuni flyer, soprattutto nazionali, c'è scritto di fare scorta di sostanze. Ecco, noi su questo, sia come CAS che come ITARD, la rete italiana di gestione del danno, non siamo assolutamente d'accordo, perché comunque una quantità importante di sostanze in casa, soprattutto magari per una persona che ha un consumo problematico legato a una determinata sostanza in un determinato momento, può portare ad abusare. E oltre a questo anche a dei rischi penali, Legale, no? legali molto più importanti Certo. che vanno oltre la modica quantità. Un'altra cosa che noi continuiamo a raccomandarci è comunque di non consumare mai soli, soprattutto per gli assuntori di endovenosa è importantissimo in questo momento non consumare mai soli perché in caso di sovradosaggio da sostanze, a se sei da solo, come si diceva anche prima, è impossibile chiamare soccorsi o autosomministrarsi in Narcan. Quindi, sei in due però, e a quel punto la persona che non è stata male intanto chiama il 118 che però in quel momento può essere impegnato nelle procedure Covid-19, avere sempre una lozione in casa, che è il farmaco che viene utilizzato nel sovradosaggio di eroina e somministrarne in attesa dell'arrivo del 118. Per questo, come università di strada outsider, ma anche come centro Java di Firenze, stiamo proprio facendo una distribuzione a tappeto di naloxone in questo momento sul territorio firenze. Ok, per concludere volevo chiederti di ricordare i giorni e gli orari in cui siete a Prato, magari c'è qualcuno che ascolta di Prato anche, quindi. Ok, allora, siamo contattabili telefonicamente tutti i giorni al 349-55-64977, dalle 10 della mattina alle 20 la sera. Poi siamo invece con l'unità di strada proprio in presenza operativa il lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 18.30 e il martedì e il mercoledì mattina dalle 10 alle 15, il giovedì sera, perché ora stiamo facendo una sperimentazione con i medici per i diritti umani, quindi in orario serale, e il venerdì sempre dalle 10 alle 15. Ok. Allora, grazie mille e buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Concludiamo esattamente da dove abbiamo iniziato, non prima di avere di nuovo ringraziato tutte le persone che ci hanno inviato qualche contributo per questa e per le altre puntate. Dopo di me alle 22 Uru, dalle 23 invece i racconti di mezzanotte, appuntamento ormai consueto qui su Radio Wombat in quarantena. Il palinsesto della settimana prossima lo troverete pubblicato da stasera, infatti da domani rinizieremo con le nostre dirette, con le trasmissioni, con la diretta quotidiana delle 19, ma anche con le altre trasmissioni che continuano ad avere luogo qui sulla radio. Che dire, volevo finire, lo so che dire, volevo finire ricordando esattamente quello che ho detto all'inizio, ossia la pagina strumenti dell'ACLAB IFDU che si trova all'indirizzo ifdu.noblogs.org/strumenti, dove sono consigliati una serie di strumenti utili, non commerciali, autogestiti, che in questi giorni ci stanno servendo più che mai. Si parla di servizi di scambio di file, caselle di poste, motori di ricerca e quant'altro. Andate a dare un'occhiata, che è uno scrigno di tesori questa pagina. Ricordo anche i contatti dell'ACLAB IFDU, if_du@autistici.org. Vi lascio in compagnia degli ACDC e ci sentiamo settimana prossima. E a più tardi con chi resta sintonizzato. Wombat. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.